Ecco una rapida panoramica sul monastero dell'Incarnazione di Avila. Esploriamo i segreti di questo affascinante monastero spagnolo del XVI secolo, costruito, pensate un po', sui terreni di un ex cimitero ebraico, che è servito da vero e proprio crogiolo per la rivoluzione spirituale di Santa Teresa d'Avila. Allora, primo, il legame con Santa Teresa. Lei entrò qui nel 1535, a soli 20 anni, e ci rimase per quasi 4 decenni. Ma sapete una cosa? All'epoca la vita nel monastero non era affatto rigida. Ospitava circa 180 suore, con forti divisioni sociali, ed è stato letteralmente questo ambiente, un po' troppo rilassato, a spingere Teresa a ribellarsi, fondando l'ordine riformato dei Carmelitani Scalzi per tornare al rigore originale. Secondo, esperienze mistiche e incontri illustri, proprio qui Teresa visse la celebre transverberazione, insomma un'estasi in cui si sente il cuore trafitto spiritualmente, oggi celebrata in una cappella del 1630 costruita sopra la sua vecchia cella. E nei locutori, cioè le sale di ricevimento con le grate, riceveva figure leggendarie come San Giovanni della Croce. Pensate, il museo conserva ancora un suo famosissimo e insolito disegno della crocifissione vista dall'alto. Infine, il monastero oggi. L'edificio unisce l'architettura romanica a tocchi barocchi del XVIII secolo, diventando patrimonio UNESCO nel 1985. Ma l'aspetto più affascinante è che non è solo un museo per turisti. Ospita ancora oggi una comunità attiva di monache carmelitane, che mantengono viva la tradizione del silenzio e della contemplazione. In definitiva, questo monastero è la prova tangibile di come la visione ostinata di una singola donna abbia potuto rimodellare per sempre la storia e la spiritualità di un'intera epoca.